Benvenuti a tutte e tutte, questa è l'edizione più triste della storia di Zona Rossa, in quanto ci sono solo io. Gigi, penso il peggiore speaker mai incontrato nelle sale radiofoniche. E poi per fortuna questa non è neanche una sala radiofonica, quindi me la svango abbastanza. Quest'oggi in teoria avremmo. Ci sarebbe piaciuto parlare di quello che accadrà sabato a Milano, e invece ve ne parlerò solo io. Adesso mettiamo un altro paio di canzoni, nel frattempo mi accendo la brasa, l'astronave parte, a fra poco. Thank you. Eccoci qui, siamo tornati, anzi sono tornato su Radio ZM Onda Rossa. Quest'oggi vi parleremo della mobilitazione che avverrà sabato alle ore 15 sotto Regione Lombardia. Mi raccomando, partecipate, vogliamo giustizia. Adesso andiamo a fare la prima telefonata, vediamo se ci riesco. Parrebbe di no, e invece la sì, invece ce la faccio. Incredibile, pensavo di non essere in grado di farlo, invece vediamo se questa eminenza risponde. Parrebbe proprio di no. Allora riproviamo dopo. Nel frattempo, alla pagina Facebook sull'evento Vogliamo Giustizia 20 giugno sotto la Regione Lombardia potete trovare il lungo comunicato di convocazione della mobilitazione. In piazza ci saranno un sacco di realtà, principalmente le brigate di solidarietà popolare che si sono attivate durante il periodo di lockdown, che hanno messo in piedi questo meccanismo di mutuo soccorso e che in questa fase sta evidenziando come le differenze sociali siano molto forti e che l'emergenza in realtà non è mai finita, perché in realtà l'emergenza non è iniziata col coronavirus e ci sono moltissimi nuclei familiari, moltissime persone sole che non sanno come arrivare a fine mese, e le brigate si sono incastrate in questo meccanismo attivamente portando solidarietà a queste persone in difficoltà. Speriamo tutti e tutte che ci siano anche loro in piazza con noi questo sabato per ricordare a questa giunta i troppi errori che hanno commesso e soprattutto per ribaltare questo meccanismo che stanno mettendo in pratica nell'ultimo periodo, dove cercano di salvare le chiappette del governatore Fontana. Nonostante il susseguirsi di scandali, nonostante i numeri dei decessi facciano rabbrividire, questa banda continua a sostenere di aver fatto un ottimo lavoro. Ci dicevano andrà tutto bene, ma è palese che non è andato tutto bene. E adesso vi metto un'altra traccia e nel frattempo mi silenzio che dico solo stupidità. Let all wind blaze its roar, let their wonder exact six forlorns, four pillars and three males to use their luck. And who measures up? Well, I wish you luck. And who measures up? Well, I wish you luck. And this is not such a deal, this is not Hollywood fine. Oh, when the field's wide open, up in the horse's got the biggest hide. Windows and blade hard to fit, but the start is a second, two starts and a bit of take, and the race is a puzzler when they're pulling inside, and it's a hit in their nerves, man. They look back, and you can't count on that, and it's a fact, and they're pulling close to me, they're talking about the pigs, and they're talking about all the wins, the freaky guy. This is not Georgia, damn, this is not Hollywood Park. When the field's wide open, off of the horse has got the biggest heart. Yeah! Every time I go back to the East Bay, I run into Big L. But my old friend Big L, Lord, he's not doing so well. Me and Big L grew up across the freeway from the track. Yes, we spent many, many, many, many days on the track. I see Big L come rolling off the street. Riproviamo, vediamo se... caro Nils! Pronto? Pronto? Mi senti? Raga. Sì. Mi senti, Nils? Non si sente. Mi senti, Nils? Allora, secondo me non mi sente. Risolviamo un po' di problemi tecnici. Keep me in the sky, that's all that I cry. I'll become your servant if it's worth your time. Keep me in the sky, that's all that I'll say. I know I haven't been walking a humble path. I know I cursed at your name and then laughed. I know I found it in name to bend calf. The servitude of groveling framed as pain task. I gotta figure it can't hurt to ask. Suspension of disbelief and uniquely freak flash. Admission of the faithfully shaken now trapped. 30,000 and dropping, it's on and popping at last. Keep me in the sky, that's all that I cry. I'll become your servant if it's worth your time. Yeah. non c'è da ma senta mano sulla banciera tutto burdello come sta torna ma sta torna la valera ma sta torna la polizia ma mi sono scedata già mi manca l'energia ma lo stanno che burdello sente cuociare creature sigarette sigarette sto dormendo ancora ma in già rindoletta in zavura da fare la maronna amica sola come scarpa e come bella scegata la vera guagliù c'è mi mamma via con chi sto solo e crimina ma sta danza televisione e Maronna mi, maronne tu me caver, maronna mi. Maronna mi, maronne tu me caver, maronna mi. Maronna mi, maronne tu me caver, maronna mi. Maronna mi, maronne tu me caver, maronna mi. Panalito fa l'ingudine, ogni tanto feo martello, non è bello. Nell'ingudine neo martello, si si martello a volta, si non sta come sta. Solo re morta e lui è viva Scedata la vera guagliù Scendi in mammezza via Tutti sul sole criminale Sta danza televisione Scedata la vera guagliù Scendi in mammezza via Tutti sul sole criminale Sta danza televisione Senta mano sulla danza tutto burdello che ma sta attorno un cavaliere ma sta attorno la polizia ma mi so scedata già mi manca l'energia ma lo stanno che burdello sente cuociare creature sigarette sigarette sto dormendo ancora ma in zaringoletta in zavura da fare la maronna amica sola e come scarpa e come bella scedata la vaglio scendi ma mi è già via tutti sti sole criminali sta danza televisione scedata la vaglio Scendi in mammezza via Tu che sto sole criminale Stanno già televisione Maronna mi Maronne tu me caver Maronna mi Maronna mi Maronne tu me caver Maronna mi Maronna mi Maronne tu me caver Maronna mi Maronna mi Maronne tu me caver Maronna mi Maronna mi Maronne tu me caver Maronna mia. E vi invitiamo sabato 20 giugno ore 15 sotto Palazzo della Regione perché vogliamo giustizia per tutto quello che è successo, vogliamo giustizia per come non è stata gestita tutta la situazione, vogliamo giustizia per le vittime dell'epidemia, ma vogliamo giustizia anche per tutti noi che siamo ancora qui, che andiamo sul posto di lavoro ogni giorno senza tutele la maggior parte delle volte. Hangers, la mia stima, buia in cucina e l'architetto no, non la mangio, benzina e serefangio. Signor Capobo, molto famoso, Milano, piccone, pericoloso. Le voci in testa, Giovanna d'Arco, le guerre. Perché voi pensate che no, però in realtà, cioè, dire cose semi intelligenti invece che le solite minchiate non è semplice, soprattutto non riesco a coordinarmi perfettamente voce, musica, cose, e quindi faccio un po' fatica, quindi scusatemi. Comunque, per tutti gli abitanti e le abitanti di Milano Sud, in particolare di zona 5, Gratosoglio, Stadera, Missaglia, sabato 20 ore 14 c'è un pre-concentramento in piazza Abbiategrasso. Insieme prenderemo la metropolitana e raggiungeremo il concentramento di Gioia sotto il palazzo della Regione. Mi raccomando, venite muniti di mascherina, preparatevi e aiutiamoci a mantenere la distanza, diciamo, di sicurezza sia nel tragitto che una volta in piazza. E invitate i vostri amici e conoscenti, le vostre amiche, la vostra vicina di casa, il vostro panettiere. Sabato 20 giugno, ore 15, Regione Lombardia, fermata metropolitana Gioia. La tipa è morta, ho l'insonnia sulla mia bocca. Sei ancora responsabile come un padre, ma i figli non ci sono più, scomparsi come Bruno Lauzi. Scomparvero all'improvviso, ma io restai. Sono angeli in paradiso come Left Eye. Disegno sbadigli quando sono in forma, formigli, faccio piazza pulita, varichina, amuchina. Fine, guardo capri ignoranti e parlo con fate, metri. Fate bene, fratelli, Grace Kelly. Qui è una roba grassa, John Candy. La mia mountain bike sui sentieri, quasi moto come me. Madlib, tuono nel cuore, culo sul trono, re capo. Scusa se non ho salvato il mondo, re cavo, blow. Le mie tracce, tu non sai come sentirle. Cavolo, le mie tracce, io non so come gestirle. Bravo, rapper definitivo. E non è vero ciò che è vero ciò che piace. Mettitele in testa, giro. Ho l'impasto di serate, riso in bianco e risate. E vi sto dando la vita e mi ringraziate così. Voi siete così così, nouvelle cuisine. Ho consigli per tutti come un bar raccolto a tesi. Non ho scappato, sgasato, Jean Alesi. Il tuo amico con la birra, Sanssouci, Sanssouci, grazie. Volevo aggiungere una cosa, tanto per capire come vanno le cose. Cosa? Le cose? Una specificazione. Dalla mia strofa nemica ho tagliato le parole, come ha fatto Stalin, però con la sua prole. Spesso l'eccesso intossica come il veleno. Non sempre togliere vuol dire dare meno. E se poi non ci arrivi, io come autodifesa ho caricato online il testo in versione estesa. Perché qua tutto sublima come fa la naftalina, come un fidanzamento cacciato il Yo, man, this place is bomb. This is the transit system. They don't like it to be defaced, and they will at times try and go to the extreme and try and apprehend you. Coez, per tutti i bomber di Roma e di tutta Italia, circolo vizioso. E fa così, e fa così. Il giorno lascia pesantezza a una città che sta dormendo. Vediamo sotto i tunnel della metro strisciando. Forse qualcuno si nasconde sotto il treno. La paura ci confonde ma non vince sul veleno. Noi vestiti di nero, scarpe silenziose. Il logo The North Face marchia le nostre divise. Davanti a me un vagone della metropolitana. Gli metterò un vestito firmato Montana. Lancio bombe di colore su un vagone. Rincorro dietro ogni mia lettera alla perfezione. Hanno tutti l'espressione di chi sta godendo. Mentre sto coprendo quel coglione, sto ridendo. L'ansia nei miei gesti, più una rice argento. Attento a non lasciare tracce su quel pavimento. Sopra quel tombino il peso del mondo. Sotto la violenza di un bambino che ha secondo. What you want? Just a lot of rock, a lot of steel. Tomb, dungeon, under the city. A lot of trains, a lot of fun. L'amore l'ho messo solo in questo ormai da un pezzo. E adesso dimmi cosa cazzo mi è rimasto. Un vuoto immenso quando tutto perde un senso. Riempio giorni vuoti con un flop sul cemento e penso che forse ho perso un filo conduttore. La linea della penna sopra un foglio è il mio nome. Lo puoi levare da ogni cazzo di vagone. Puoi cercarmi quando striscio sotto un treno fermo alla stazione. Io svuoto un peso su quel muro. È un giorno duro in cui non cerco più la stima di nessuno. Fallo per il motivo più vero. Ricorda che per loro ogni tua fissa vale zero. Prendila sul serio. Un'altra notte vesto nero quando esco. Zaino pieno delle storie tese con le quali cresco. Adrenalina a mille, ansia, segni di uno sfogo. Vediamo chi rimane adesso, che non è più un gioco. All the toys are like home sleeping, cuddling to their pillows. They usually have curfews. Come down in the wee hours of the night after the work is done their job. Sweep has been the sweeping they had to do. Just take my time and be creative. I think it's something you can never really capture again once you experience it. You have like live third rails and like crazy cops who come and chase you out. Ed eccoci qui. Abbiamo appena sentito Coez insieme a Mr. Phil. Ebbene sì, perché Coez, prima di essere un cantante indie pop cose, era un rapper anche discretamente bravo. E quello era con il suo collega DJ, sempre di Roma, Mr. Phil. E niente, dicevamo, sabato 20, Regione Lombardia, vogliamo giustizia, presidio, perché pretendiamo le dimissioni della giunta regionale. Ma perché? Perché riteniamo che sia Regione Lombardia il primo dei responsabili di questa strage che è avvenuta nella nostra regione? Perché non è in sé per sé questa banda di buffoni che ci ha governato fino ad adesso, ma è il sistema della Lombardia che ci ha accompagnato, e quindi è il sistema che questa regione e quei luoghi rappresentano a essere responsabile di ciò che è avvenuto. Tutto è cominciato con la gestione di Formigoni e DCL della regione, della sanità, e quindi il gioco è stato spostare tutti i finanziamenti pubblici alle cliniche private, cercando di svalutare il più possibile il settore pubblico per aiutare e sostenere quello privato. Il gioco è stato quello di smontare tutti i presidi territoriali che c'erano, perché, come dice Giorgetti, un esponente della Lega Nord, della Lega di Salvizio, non servono a niente, cioè erano tante persone pagate per non fare niente. E poi si è visto quando un colpo di tosse un po' più forte ha messo in ginocchio quello che era l'eccellenza, no? Quello che doveva essere il fiore all'occhiello della nazione Italia per quanto riguarda il settore sanitario, si è visto come ha retto bene. E se ha retto in qualche modo, se ha funzionato, non è stato per quei presunti cervelloni che dirigevano le cose, ma è stato per la tenacia e il coraggio che hanno avuto le lavoratrici e i lavoratori, che si sono esposti in prima persona durante questo delirio. E nel senso, adesso forse ci siamo già dimenticati tutto, perché adesso le mascherine sono reperibili ovunque, con qualsiasi tipo di grafica, ormai è più una moda, no? Avere la mascherina. Però quando c'erano tanti contagi, quando non si sapeva come affrontare la cosa, quando la gente era spaventata, le mascherine non c'erano, e non c'erano neanche per il personale sanitario, per chi lavora sulle ambulanze. E quindi, insomma, i primi, forse, anzi senza forse, che hanno pagato tutte queste inadempienze, forse sono stati proprio questi lavoratori, queste lavoratrici che si sono sacrificate. Ma adesso l'emergenza non c'è più, adesso non si devono più sacrificare queste persone, quindi adesso è il momento di andare sotto Regione Lombardia e pretendere che questa banda di pagliacci si faccia da parte e faccia sì che si torni ad avere una gestione territoriale degli spazi in cui viviamo, in modo tale da non trovarci, speriamo, mai più in una situazione del genere. E quindi vi invitiamo sabato 20 giugno alle ore 15 sotto il Palazzo della Regione. Per chi risiede o proviene dalle zone meridionali della città, c'è un preconcentramento alle ore 14 alla fermata di Verde a Biategrasso. Da lì ci muoveremo insieme e raggiungeremo il concentramento sotto il Palazzo della Regione. Mi raccomando, ricordatevi le mascherine, e il prossimo pezzo è LP. There is no you. Beh, questa era bellissima, forse non la sentivo da 28 anni. E nel frattempo sono arrivati in radio anche la Buzzi e Lorenzo Picarazzi. Sì, ci nascondevamo. Niente meno. Sì, no, mi avete lasciato qui come un coglione per un'ora e ho dovuto fare tutto da solo che non sono capace. La musica, non riuscivo a mettere le canzoni che già stavano partendo, mi stava facendo incazzare sta cosa che mi stava annervando. Poi il telefono non riuscivo a farlo funzionare. Poi ho provato a dire delle cose intelligenti, ma poi mi sono zittito, mi sono guardato e ho detto: ma io sono da solo che sto dicendo cose intelligenti che in realtà sono stupidissime. E poi per fortuna siete arrivati. Beh, è entusiasmante tutto questo. Molto entusiasmante, in realtà abbiamo... È tutta colpa di Picca, comunque, esatto, abbiamo, ci tenevo abbiamo, a dire subito. Da pentiti quali siamo, abbiamo 1001 giustificazioni, non ne diremo mezza, lasceremo al caso perché è zona rossa comunque. Bentornati su Radio ZM. E Gigi vi avrà già ricordato dell'appuntamento di sabato. Io giù sembra un formicaio, praticamente si stanno preparando di tutto e di più, sembra proprio la vestizione. E ho esortato la gente dicendo: mi raccomando, salite su in radio e date un piccolo contributo del 20. Ora voglio vedere i primi o le prime. Ma tu pensa che io ho pensato, non ho detto alla Martina facciamo questa cosa e non è arrivato nessuno, neanche voi, cioè, esatto. Okay. Quindi ho detto, allora cosa faccio? Chiamo la gente che è giù, che sta facendo le cose, e gli chiedo cosa stai facendo e ti racconto le cose. Chiamo Nils e non mi sentivo, chiamo quell'altro, non mi sentivo, ho detto beh, sono un fallito, ok, va bene, ciao. Tra l'altro volevo dire, giù di sotto c'è un formicaio distanziato. Sempre distanziato, anche perché ci dovremmo abituare a farlo, nel senso che sabato si manterranno le distanze. Se qualcuno se lo sta chiedendo, ci saranno un tot di persone che saranno lì apposta a ricordarvi di mantenere le distanze, tra cui io e Martina. Non so se lo sapevate, se ve lo ricordavate. Quindi immaginate me e Martina che è come i vigili col fischietto, fischiano, dice: oh tu, ascolta, un po' più, Fate gli assistenti civici, insomma. Esatto. Okay. Tutto questo mentre assistenti filmiamo. Civici. Eccolo, il primo contributo per sabato 20 è entrato a Radio ZM. Fergi Baldo, il nostro baronetto. Grazie Fergi. Baronetto. Meno male che hai rotto il ghiaccio e noi rompiamo a te qualcos'altro. Quindi vieni, accomodati. Vieni. Senza paura. Perché cosa c'è sabato, caro Fergi? Cosa si fa sabato? Ecco a te, vai. Ma poi quando parlo, ricchia. Come, scusa, al microfono. Ma si saltano tutti sabato, vero? Ma si saltano tutti a sabato? Si saltano tutti a sabato, sì. Qualsiasi cosa cosa vorresti dirci con queste parole, Ferdi? Ma in realtà, guarda, a quanto capisco c'è un caro amico, amico di un amico. Sì? E vuole costruire un... come si dice? Ghigliottina. Ghigliottina. Ah, ok, no, perché in inglese è guillotine, quindi... Sì, vabbè, guillotina. In un inglese un po' discutibile, comunque sì, ghigliottina. Ghigliottina, ma mi sentono? Certo, sì, ti sentono tutti. Ti sì. Un microfono così per giocare. È un microfono gelato come quello di Minnie di quando eri piccolo. Esatto. Questo caro amico vuole costruire te questo guillotina e metterlo nel palazzo della regione, mi sa, non so qual è. Nel palazzo di regione, a parte che non avresti mai dovuto dire questa cosa perché... Però non lo faremo neanche. Beh, questo caro amico non lo so. Caro amico Gianni si chiama, se non sbaglio. Sì, Gianni Cash. No, Gianni Sperti. Johnny Cash. Non Johnny, Gianni. Gianni Cash, ma con la K-A-S-S-H. Ah, ok. Pensavo Gianni. Okay. In realtà questo Gianni Cash è un mezzo marocchino, mezzo egiziano. Ah, ok. Beh, okay. Non è una cosa strana, cioè... No, è Cash. Ah, ok, ok. Vabbè, Fergi, sei veramente inutile anche in questa modalità radiofonica. Però tu stai costruendo qualcosa in questi giorni, stai contribuendo a fare qualcosa, raccontaci. Contribuendo forse sì. Sì, sto... Cosa? Dici cosa stai dicendo, cosa vuol dire? Sto facendo un po' di pedicab. Bene. Bravo, cos'è questo pedicab? Un sorta di sidecar. Sidecar. Di nuovo, perché l'ultima volta che ho costruito questo sidecar l'hanno rubato a GTA. Comunque, giusto proprio il momento, se avete visto un pedicab o un sidecar... Beh, proviamo a spiegare che cos'è un pedicab. Allora, è un triciclo, più o meno un triciclo, però è al posto che proprio la ruota in mezzo, ma a fianco, cioè più o meno un sidecar, cioè il, ok, praticamente no, non è risho, è un piccolo rimorchio per biciclette, c'è un aliante, no, è sidecar. Ok, è un sidecar. Se l'avete visto, portatelo a Fergi o fateglielo sapere. Anche se non è quello che ha costruito Fergi, se ne vedete un altro e lo volete portare a Fergi, lui li accetta senza problemi, tra l'altro. Sì, di tutte. Poi vabbè, questo è un po' unico perché ovviamente se è fatta di un artigiano a caso, certo, si no, possono riconoscere. E poi vabbè, fa niente, dai, tanto sarà chi ha rubato sarà contento, anche mi fa piacere di sicuro non... Fergi, chi stiamo chiamando? Annuncialo. Stiamo chiamando Nils, Nigel, il nostro, diciamo, il... Forse è andato a lavoro quel, sì, forse quell'angelo andato. Campione. Sì, sì, appena andato, mi sa. Allora non ci risponderà mai. Post mobile. Niente, possiamo però farvi adesso... Comunque si vede che c'è della povertà, perché post mobile stai raschiando proprio il fondo. Io c'ho cop voce. Ma perché tu sei un cop po'... voce spacca. Cop voce, raga, spacca. Sarà che io non uso i giga, ma anche se li usassi, spaccherebbe. Ma comunque io mi sa che devo andare. Dove vai? Far cosa? A capire come montare questo pedicab. Ah, sì, okay. È una delusione. Salutaci i tuoi giberlini. Ciao, Cico. Giberlini. Ah, i giberlini. Ah sì, saluto i miei gerbilli a casa. Gerbilli, scusate. Sì, gerbilini. Gerbilli? Sì. Veramente? Sì, aspetta che faccio vedere la foto. Cavolo! E l'ho appena preso allora, ieri. Per chi non sapesse dell'ascolto cosa siano i gerbilli, aspettate, credo... Attenzione, ecco la chiamata di Nigel Curziotti. Ciao, hey, Nils. Hey, Nils. Hey. Pronto, Nils? Allora, ci senti? Sì, adesso sì. Sei al lavoro? Sì, sto entrando in riparto. Ok, un minuto per noi ce l'hai? Un minuto, dai, due parole su sabato. Perché è importante esserci, perché ci saremo. Tu ci sarai? Penso di sì. Beh, è importante esserci perché forse non hanno ancora capito che cioè, devono andarsene. Devono dimettersi. Mm-hmm. Che non hanno azzeccata una, ma neanche una. Anzi, tutto quello che potevano sbagliare l'hanno sbagliato. E quindi niente. Quindi, visto che loro non lo capiscono, se vi ha qualcuno che è molto molto forte, glielo urli addosso. E sia una roba visibile che tutti possono condividere. E che ci sia una pressione popolare che li fa andare via. Abbastanza chiaro. Beh, il tuo lapidario. Messaggio. Grazie mille anche per il tuo poco tempo che ti separa dalla libertà al lavoro. Adesso Nils, di qualcosa di compromettente che ti faccia mandare via immediatamente. Esatto. Urla qualcosa. No, scherzo. Non lo fai. Abbiamo bisogno di voi. Dai, Nils. Dobbiamo applaudirvi ai balconi. Buon lavoro, Nils. Grazie, Snello. Ciao, ragazzi. Buona serata. A voi, buon lavoro. E Zona Rossa va avanti. E Zona Rossa va avanti, tornando. Stavamo parlando. Si capiva che stava per iniziare a lavorare perché era preso malissimo. L'ho visto mezz'ora fa, era tutto bene. Sorrisone. Adesso, sì, un minuto. Cioè, allora, brutto, comunque, brutto. Tutto questo. Sì. Tutto questo era, cioè, diciamo, non questo Nils, ma questo, diciamo, l'intromissione di Fergi era perché tu ti sei lamentato che eri da solo. E allora noi abbiamo detto così, poi la prossima volta che sei da solo non senti la nostalgia degli altri. Ci e sta, abbiamo chiamato Fergi. Avete fatto bene, ha funzionato. Sono contento. Bene, beh, dai, Zona Rossa va avanti anche perché è bello che ci richiamano, quindi questa cosa mi fa sempre molto piacere. Io andrei avanti anche a mettere un po' di musica e sì, intanto infatti... ci pensiamo un po' a chi chiamare, perché io ho visto che dei volti annuivano quando ho chiesto di venire, quindi magari qualcuno che apre quella porta, a parte Fergi per sbaglio, lo troviamo, e intanto io chiamerei Stumpio dopo questa telefonata. Per sbaglio, cosa vuol dire per sbaglio? Fergi era entusiasta di appartenere a questo progetto favoloso. Nel frattempo l'Auto DJ ci propone Tchaikovsky, che noi stiamo... forse balzando, ma chi può dirlo? No, potrebbe succedere balzando. Di tutto. Ma Zona Rossa è un po' così. Tanto va bene. Prodigi, tanto farvi vedere questo, questo trick che ho imparato nuovo. Ah, giusto, è vero, guardiamo. E con questa parte la canzone Climatize the Prodigy. Tasto destro. Col tasto destro. Tasto destro. Salutiamo Guglielmo. Che ciao Gulli, tasto destro. Tanto tasto destro su Lo vedrai. Tasto destro, Gulli. Stumpio, ti chiamiamo adesso. Rispondi, Guspumpio. We'll be right back. Ed eccoci qua, Sinturna. Siamo tornati, stavamo giusto facendo due chiacchiere su quanto è bello fare la radio, quanto ci divertiamo a far sta cosa, e in realtà quanto anche è figo. Sentite la ventola? Sì, cazzo, sentite. Adesso mi sono sentite, fissa sulla sentite ventola, la ventola, è di bello me. Però, dai. Vabbè, c'è il mio computer qui di fianco che sta... è il quarto conduttore. Esatto. No, in realtà che abbiamo spostato la radio in una fonderia, quindi praticamente sì. Questo era il tuo forno. Esatto, e comunque fateci sapere cosa ne pensate riguardo a quei DJ che con superba magia riescono a dire l'ultima parola esattamente prima che il cantante nella canzone inizi a cantare. Scriveteci a Radio Zam-basso chat su Telegram, questo, insulti vari, perché Zona Rossa è questo, cose completamente a caso. Sì. Però possiamo dire anche che, tra l'altro, invece io rispetto al partire un secondo prima, mi ricordo tantissimo di quando eravamo più piccini. In questo tiro dentro anche te, Lorenzo, anche se certo. Fai quello un po' giovane, sei vecchio dentro. No, ma io sono istruito da un 79, quindi perfetto. Sono più di là che di qua. Quindi, bene, perfetto. Quindi in realtà la cosa che mi ricordo con più fastidio, perché adesso è fighissimo, adesso che lo fai, no? Dici, ah, ma ti ricordi? Hai sentito quella volta in quella trasmissione che uno sale esattamente dove parte il kick del coso, eccetera, eccetera, parte la canzone, eccetera, eccetera. E invece io mi ricordo quando ascoltavi la radio principalmente per schiacciare il tasto rec sulla tua... mangianastri. Bello, sì, e vero. Registrare la canzone che volevi. Odiavi. E quando c'erano quegli strozzi che parlavano odiavi, sopra vero, la vero, canzone vero. E tra l'altro io non so se sia vero, ma credo che lo facessero anche per una questione di... Era fatto apposta. Vero? Di diritto d'autore? Certo, era perché sapevano che la gente registravano, e così te registravi con lui che parla. Madonna, è incredibile, è vero, ma anche perché ci parlavano pure durante, a sì, volte. Sì, erano dei pezzi sì, di sì, merda sì. Proprio. Durante, cosa perché che invece... Perché avevano un minutaggio, credo, rispetto a quanto doveva balzare di canzone. Invece capita a Radio ZM che ci sono proprio i vuoti tra... Oh, mettiamo sta traccia! E poi non c'è più niente. Ci sono tre click e poi c'è la canzone che parte. Ed è per questo esatto. Che abbiamo preso con noi il quarto conduttore. Esattamente, per coprire quei vuoti con un rumore bianco molto dolce che adesso amplificherò. Comunque volete mettere qualsiasi DJ con auto DJ? Cioè auto DJ non molla un cazzo, è sempre lì, bam, bam, bam, tracce su tracce. Notte e giorno, notte e giorno. Tutti i generi musicali. Giorno e notte. Anche mangi perché... e non ingrassi. Dormi e dimagrisci. In realtà, salvo rarissimi casi, in questi giorni siamo veramente H24, quindi non potete lamentarvi. I famosi camionisti che io sogno sempre, che ascoltano Radio ZM per non dormire durante tu il turno. Camionisti. Io sogno io penso che Radio ZM, un 20%, sia stata creata anche per supportare di notte i camionisti che devono lavorare sulle autostrade noiosissime per non addormentarsi. Poi l'auto DJ non è un coglione, veramente. Di notte tu lo ascolti e pensi che abbia una coscienza senziente. Cioè, mette delle tracce una dopo l'altra che dici, questo qua non è possibile che ci stiano così bene una dopo l'altra. Eppure è veramente un programma a caso, completamente buttato lì a fare una cosa stupidissima, tipo la scimmietta che... Poi invece arriviamo noi e canniamo tutte. Esatto, esatto, l'auto DJ è molto molto più bravo di noi. Cose che ci sembrano brillanti le ascoltiamo, diciamo. Esatto, però io voglio sentire urlare, quindi chiamerò una persona che è bella infervorata in questi giorni, che ho sentito abbastanza sul pezzo, comunque abbastanza di pancia ragionevole. Magari adesso sta lavorando, però proviamo a chiamare il compagno Jacopo. Vediamo un po' cosa ci dice. È già stato a Zona Rossa diverse volte. E bentornato su Zona Rossa, Jacopo. Ciao, allora. Ciao, ciao Stumpio. Ciao. No, non si chiama Stumpio, lui si chiama Jacopo. Lui a Zona Rossa è Jacopo. Scusami, Jacopo. Stai lavorando, compagno? Sì, purtroppo sì, sto lavorando. Sei felice? Di cosa? Della chiamata? Sì, del lavoro poteva andare meglio, però poteva andare decisamente peggio, però è sempre il lavoro, no? Sì. Beh, ma ci stavamo facendo un giro di telefonate per capire un attimo, tu cosa fai sabato? Sabato? Sabato 20 io giugno? Vado in Piazza Duomo, no, ci fa qualcun altro. No, vai a messa, no. Poi dopo? Ma no, prima vado, sì, noi andiamo... Alla sabato e Shabbat, no? Ah già, è vero, ragione. Che scemi. È in zona trib. Sotto la regione, hai ragione. Cosa? Sabato sotto la regione, dalle 15 in avanti, io sarò lì insieme, spero, a tanti altri. Anche noi lo speriamo. Ricordati la mascherina e fai in modo che venga rispettato. Distanziamento. Bravo, tanto voglia di cambiare il mondo, no? Perfetto, grande. Oh, ottimo, sembra che stumpio. Hai idee chiarissime. Ma invece, se tu dovessi portare un cartello in questa piazza, cosa ci sarebbe scritto sul tuo cartello? Un cartello? Beh, un cartello iconografico anche può essere. Esatto, vabbè, non per forza una scritta. Lo sapete che? Ma io scriverei un po' a proposito delle polemiche degli ultimi giorni sul fatto che le persone che ci governano non abbiano ancora capito bene la differenza fra violenza, minaccia o descrizione della realtà, quindi un qualcosa che faccia riferimento che la vera violenza non è una fitta su un muro, ma sono gli oltre 16.000 morti in Lombardia, una gestione sia della giunta regionale ma anche sia del governo Conte, ma anche del Comune di Milano, che in tutta questa vicenda hanno delle responsabilità allucinanti. Cioè, la regione Lombardia che non ha deciso mai di chiudere la parte bergamasca, o dal sindaco Sala che dei grandiosi aperitivi di Milano non si ferma, no? Quello, tutto un insieme di cose che... Beh, insomma, è un cartello gigantesco. Pensa che ragionamento solo dalla scritta di un cartello. Adesso ci fare il riassunto su un cartello. Il cartello? Ma io scriverei la vera violenza sono i 16.000 morti, non una scritta su un muro. E un altro, il fronte e il retro, è una bella ghigliottina rappresentata. Sei già il secondo che ci parla di ghigliottine, motivo, comunque, devo dire la verità. Ed è così, nel senso, quello è il... Noi rispettiamo la volontà. Ci sta sempre, no? Storicamente sì, è una cosa molto interessante. Sulla Treccani cosa c'è scritto come definizione della ghigliottina? Sulla Treccani, sull'enciclopedia, com'è la definizione di ghigliottina? Questo potrebbe essere dato, non so, adesso magari potrei cercarlo al volo, ma secondo me quella che ci sta meglio potrebbe essere strumento popolare per giudicare i potenti, no? Mi sembra che ci sia già scritto così, tra l'altro. Cioè, se adesso mi sembra che sia così. Esatto, è la pagina Face. Esatto. Che fa, dopo vado a controllare, ma mi sembra che sia così. Sì, su qualche enciclopedia, sulla Treccani, o magari sullo Zanichelli, potrebbe, da qualche parte deve essere scritto esattamente così, no? Sì, forse su un dizionario italiano-francese anche c'è scritto una roba del genere. Sicuramente. Però poi non potrò portarla, perché sennò poi mi danno... mi affacciano al terrorismo, alle minacce, cioè, nulla di che, cioè. Ma no, ma tu dici che l'hai trovato per terra, che sei d'accordo, ma non l'hai fatto te, non ti preoccupare. Ma poi tu devi dirgli che devono contestualizzare. Esatto. Cioè, se non contestualizzano, contestualizzi qua, cioè. Cosa fai? Datemi un secondo che faccio cassa. No, ma tranquillo, siamo noi che siamo in di gamba tesa, tipo sì, zona rossa, infatti, mentre stai lavorando potevi anche mandarci a quel paese. No, ma chi so. Ma come lo vogliono questo caffè? Come lo vogliono questo caffè? Arrivo. Sono 14. 14 euro un caffè? Stumpio. Madonna. Vabbè, comunque... Arrivo. Sì, no, stai... Noi parliamo nel frattempo, sennò cioè, ci sei solo tu in silenzio. Esatto, non è bellissimo. Poi se vuoi passarci qualche cliente, facciamo... Comunque, dovremmo chiamarla radio sabotaggio, cioè noi ci insegniamo nei posti di lavoro e dobbiamo distruggiamo riflettere. Il capitale. Dobbiamo Vabbè, riflettere mi sto portando perché... abbastanza bene io. Zona sì, rossa potrebbe basta, cambiare. Posso fumarmi un po' di sigarette e parlare con voi? Oh, finalmente. Questo è lo Jacopo che conosco. Voi siete in piazza, quindi... No, noi in questo momento siamo in radio, che è grossa come una piazza, ma... Esatto. Tendenzialmente sabato dovremmo essere in piazza, sì. Buona serata. A chi lo stai dicendo? A noi o ai dei clienti? No, a voi vi mando a quel paese. Infatti non capivo. Non far sì che i clienti pensino che tu stia mandando a quel paese loro, oppure sì anche. No, dici, no, io sto mandando a quel paese. Sono abituati. I miei amici in radio ti crederanno tutti. Molto spesso li mando a fanculo i miei clienti, quindi non ho quel problema. Perfetto. Grande cazzo, giusto. Sei veramente una persona giusta. Oltre che bella, oltre che bella. No, bella proprio per niente. No, bello l'abbiamo già detto. Sì, ormai è decretato. Vabbè, insomma, Stumpio, le cose intelligenti che avevi da dire mi sembra che tu ce le abbia dette. Sì, le ero scritte, le ero preparate. Ah, ok, te le hai pure preparate. Tutti pensano che in realtà voi chiamate a casa la gente, in realtà è tutto preparato. Sì, infatti, guarda, una preparazione che va da settimana in settimana. Tutto in tutela dei poteri forti, tra l'altro. Esatto. Noi ci teniamo, sì. Va bene, dai, vi saluto. No, aspetta, ci saluti cosa? Aspetta, dai, Stumpio. Dici una canzone. Devi dirci la canzone del mercoledì, by Jacopo Stumpio. Una canzone. Sì. Dai. Vabbè, quindi si può. Vabbè, ma qualcuno prima diceva di Sabotatori, no? La Chiara, mi sembra. No, io l'ho detto. Secondo me, so che voi non li apprezzate così tanto, ma il Club Dogo inizio di Sabotatori potrebbe essere. Diciamo il Club Dogo pre uovo a quarto giaro, quindi potremmo mettere un pezzo di quelli, no? Va bene, possiamo metterlo. Possiamo metterlo. Comunque non ti giudichiamo, non ti preoccupare. Lo facciamo quasi sempre, tranne adesso, però se vuoi lo facciamo anche adesso. Dai. Ciao, vi saluto. Ciao Stumpio. Ciao. Aggressivissimo, ci mette giù così, ma fa bene perché è giusto. Sì, no, anche questo è zona rossa, ci va benissimo così. Anzi, stiamo andando a pescare il vinile. Adesso c'è Gigi che si fa lo sbatti perché è in regia. Perché lo sbatti dalla fonderia alla piazza alla stanza dei vinili. Cioè, comunque qua stiamo abbastanza. C'è un po' di strada, non possiamo metterlo dopo un secondo, ma sta tornando, ci siamo quasi. Tra l'altro, secondo me il momento adatto, questo del distanziamento, è il momento adatto per creare delle coreografie bellissime. Ma infatti, esatto, tipo quelle super. Esatto. A un metro di distanza, tipo. Cioè, o trash, tipo ballo di gruppo. Oppure super cool, alla... tipo la Michael Jackson. Anche, ma io pensavo a quel punto la buttavo ancora più sul sud-est asiatico. Ah, ok, perfetto. Quindi, tipo i mille milioni di. Sì. Che fanno tutte le mossette a ritmo. E questa è la mia definizione di una cultura millenaria. Perché sarebbe sono bellissimo. Inutile e però quindi sarebbe non so bellissimo. Di che cosa sto parlando. Esteticamente sarebbe bellissimo. Abbiamo pronta la traccia dei Club Dogo che a quanto pare il vinile è stato spolverato, quindi ce li ascoltiamo. Sono il colpo rotto che inceppa la Glock in mano ad uno sbirro che spara ad un Black Rock. Io sono l'esplosione che lo sfregia come slot. Io sono il cortocircuito che spegne gli elettroshock. Un santo con un'aureola di smog. Io sono un pezzo di merda, un bando. Non c'entro un cazzo con l'hip hop. Finché sarò il male per l'autorità musicale. Finché andrò ai concerti e vedrò gli zeri le palle. Ora capisco, mi ustiono le mani con il tuo disco. È come toccare una croce per l'anticristo. Per voi sono troppo veloce. Se ho già smesso di parlare prima che il vostro re io senta la voce, sono così svelto da anticipare il mio cervello, da avere il doppio degli anni del mio gemello. Fra, io sì che ho la strofa che pesa, sono un cane da presa, rincoglionisco le folle come la chiesa, lancio rime a deflagrazione contro il secchione che impara rime a memoria per l'interrogazione. Puoi avere il meglio campione, la meglio produzione, ma non puoi mettere Boy George a fare film d'azione. Non vendo truffe perché incluso nel mio cachet, servo bicchieri di napalm vestito da sommelier, illuminato nel flow da visioni mistiche. Ogni volta che tocco il micro, ricevo ricevo le stigmate, riduco in trans, folle intere di fans, la testa gli gira 24 ore come le mans, la circolazione frena, la schiena che trema, io sono il fottuto virus che è entrato nel tuo sistema. Arrivo per il sabotaggio, killer linguaggio, cervello immune al lavaggio, lirico braccaggio, siamo assassini sui vizi bassi, collassi, se vai contro la mia sintassi. Arrivo per il sabotaggio, killer linguaggio, cervello immune al lavaggio, lirico braccaggio, siamo assassini sui vizi bassi, collassi, se vai contro la mia sintassi. Trasmetto dalla città dove piove acido, grigio, vento gelido, come lo sguardo del mister col soprabito, ho pezzi trascendenti che infrangono le tue nuove trendy lenti, trasparenti senti, senti rime più nuove del sangue di Johnny Lance, che ogni anno si ricambia quando è saturo di bamba, resisto ai colpi più di narici in ceramica, sono il solarium che sputtana la tua faccia di plastica, la sequenza parla subliminale nel cartoon di Natale, frequenza letale che ti legge il cervello dal cellulare, una ferita aperta come quella di chi si sveglia senza regni e minza su spiaggia deserta, con fede in combinazione, la missione di coca e roba nell'iniezione del toffa che muore in stazione, l'esplicitazione che per la battle non sei in grado, sono l'11 fisso sul dado sul campo. Primo da quando le zanne si sono messe le prime Buffalo, da quando hanno sgamato il primo prete pedofilo, la mia strofa è una dose pesata altanita, droga del futuro che non è ancora stata sintetizzata. Paolino, porta Paolino la guerra sonora, io stacco l'ombra da terra, i rapper dell'ultima ora, occhio cinese tipo Mora, MC che ti fa tipo MD, MA, ti schianto come un 19 calibro del mio rap, l'amo col mic a baionetta, il tuo CD è pieno di pezzi di merda come una camionetta, il guercio è il nome del tipo che in un minuto ha chiarito che sei fottuto finito, quando rime sputo e bene. Arrivo per il sabotaggio, killer linguaggio, cervello immune al lavaggio, lirico braccaggio, siamo assassini sui pizza e bassi, collassi, se vai contro la mia sintassi. Arrivo per il sabotaggio, killer linguaggio, cervello immune al lavaggio, lirico braccaggio, siamo assassini sui pizza e bassi, collassi, se vai contro la mia sintassi. Cioè, ieri hanno fatto la pasta con l'anduia. Ieri sera a cena. Sì, tutto questo è incredibile. Sì, era buonissima. Fatta bene, pomodoro, anduia, e ho spaccato. Solo che poi è venuta una... Mi sono svegliato tipo alle 2. Sudato, fradicio. No, con un'acidità proprio tipo acido muriatico che mi stava corrodendo la gola. Se accendevi un accendino e soffiavi, bruciava tutto. Sì, no, ma veramente... Lanciafiamme. Ma sì, esplodevo praticamente per quanto ero pieno. E un vecchio rimedio mi ha risolto il problema, perché non c'avevo Malox, non c'avevo robe per pettinarmi e budella. Abbiamo un ospite che è entrato. È arrivato un ospite, è arrivato un altro momento. E si vede. Comunque, che ha ascoltato. Ho fatto un vecchissimo rimedio, cioè un cucchiaino da caffè, di polvere di caffè. L'acidità? E me lo sono dopo la pasta con l'anduia così, di ieri. Me lo sono shottato male e istantaneamente mi è passato, ma cioè che nessuna medicina al mondo che ho mai preso ha fatto quell'effetto, forse qualche droga. Intanto abbiamo Meme che ci vuole raccontare della cena di stasera. Buonasera a tutti. Questa sera Giallo Zafferano ci ha proposto crema di zucchine, pancetta brustolita, aglio come se non ci fosse un domani e taleggio che puzza su un pane buonissimo col sesamo. Sì, la Buzzi ci odia, però dai, se mangia bene. Se mangia bene lo spallanzani, quindi ringraziamo la cucina che è stata lavata di tutto punto stamattina. Non vi raccontiamo perché è zona rossa, non è zona nera. E lo facciamo un'altra volta zona nera magari. Facciamo una trasmissione horror, esatto, notturna, dopo Midnight Max. Esatto, facciamo... Madonna, l'ha detto. Io e i miei parassiti. Esatto. Horror Zam. E quindi niente, io amo i miei palazzi. In realtà tutte le persone sono invogliate, non obbligate, perché noi obblighiamo, ma fino a un certo punto, di dire due parole rispetto a sabato 20 e quindi andiamo avanti a raccogliere tutte le varie informazioni, tutte le varie proposte, le varie suggestioni che ci arrivano anche dai nostri compagni e dalle nostre compagne, e andiamo a prendere una che in questo momento sta trafficando insieme alle altre 1000 formichine che ci sono giù operose. Intanto mi arrivano messaggi, però la chiamiamo sperando che risponda. E intanto già squilla, buona cosa. Sì, secondo me fra poco ci risponde. Anche perché se non risponde è un'indiana proprio. Ma basta urlare il suo nome dalla rampa delle scale, probabilmente guarderà il telefono e invece ci lascia così in mutande. È una vergogna. È una vergogna. Tutto questo è una vergogna. Benvenuto nel servizio di segreteria telefonica del numero. Non lasciamo messaggi segreti. La zona rossa non lascia tracce, ma tanto ci richiamerà. E quindi vediamo un po' se io scrivo. Se no, dovremmo chiamare lui. No, lui, Madonna santa. Chiamiamo lui. Chiamiamolo perché alla fine è il primo che chiamiamo sempre. Però a sto giro ci siamo, non dico dimenticati, perché lui aleggia. No, io ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Aleggia sempre. Ah, non ti ha risposto? Non sono riuscito io. Ah, giusto, ok. Infatti, giusto. Adesso lo chiamiamo perché è l'anima marcia di Zona Rossa. Molto. Eccolo, bentornato. Ciao, amici. Ciao, caro. Ascolta, mi fai un favore, Cigo? Sì. Sei di fianco alla Cocchi? No, vai di fianco alla Cocchi intanto che parli con noi. Poi quando ci arrivi mi dici. Ma non sono insieme alla Cocchi. Dove sei? Sono uscito a mangiare con mia sorella. Cioè tutti gli altri compagni e compagne sono lì a lavorare, a sgobbare, tu invece vai a cena. No. Sì. Adesso ci dici dove vai, cosa mangi, quanto spendi e chi paga. Abbiamo già mangiato una piedina e ho pagato io. Oh, la Madonna. Ascolta, ma tu hai una sorella? Sì. Quanti anni ha? 18. Ma scusa, ma giocava con te a burraco le volte che ti chiamavamo durante il lockdown? Certo. Ma vinceva tutte le volte contro di te alla partita? Ma non nominarla mai, è come se non quando esistesse. Quando era contro di me vinceva sempre, quando era insieme a me vinceva. No. Quando era insieme a me perdeva, quando era contro vinceva. Vabbè. Quello che perdeva sempre ero io. Ah, ci sta. Vabbè, bene. Ok, va bene, comunque. Ma pensi di tornare stasera? Mi sa di sì. Bene. Mi sa che farò un salto. Bene. Ti mancava Zona Rossa? Tanto. Dai, dici qualcosa, la cosa che ti mancava di più di Zona Rossa. Non dire Guglielmo perché non è vero. Beh, in realtà un po' è vero, perché l'accoppiata è l'accoppiata. Ma che accoppiata? Ma dove? Ma va, ma siamo Ma Guli latita. Non crediamo nelle coppie. Non siete più quelli di Mephist. Non siamo più quelli? Siamo più quelli di Mephist, bravo, dici il vero. Tanto abbiamo appena mandato i Cap Dogo con Mephist. Esatto. Neanche a farla apposta. Però tu non ascolti perché sei un pusillanime come sempre. Lo giuro. Ma questo uomo pensa quant'è con noi, che anche se non ci ascolta... Sa che canzoni ci sono in re. Cioè, capito? Sei un grande. Cioè, così. Vabbè, se faccio in tempo magari faccio una volata in puntata allora. Perché hai già mangiato robe forti. Parole forti. Dai. Intanto ascolta, se no riapriamo Zona Rossa e sono per te, fare ti picchiamo e ti chiudiamo dentro. Tu hai detto sta frase ovviamente solo per farti mettere giù il telefono, cosa che non avverrà ovviamente in questo momento, quindi era soltanto una paraculata perché sappiamo che non entrerai dalla porta. Però volevamo giusto due parole su sabato. Cosa fai sabato? Dove sarai sabato? Sabato si è tutti in piazza, no? Dove? In piazza Regione Lombardia, o comunque piazza lì vicino. Regione Lombardia? A far cos'è? Al presidio contro la Regione, cioè contro Fontana Gallera e quindi Regione Lombardia. Bravo, ma c'è la mascherina? Sempre. Bravo. Un bastone per tenere le distanze di sicurezza. Bravo, stavo per dirti proprio questo. Vedo che sei preparato comunque. Ci sta così. Vedo che sei preparato. Ah sì, per forza. E niente, quindi sei contento di questa cosa? Beh, assolutamente. Era anche ora. Era anche ora, giustamente. Dai. Dai, compagne. Bene, Cigo esorta e il popolo ti ascolterà e insorgerà. Grazie mille Cigo, mi raccomando. Dacci una bella canzone però adesso, per favore, dai. Allora, vi do una bella canzone. Ma bella. Può essere suggerita la tua sorella anche. Esatto, poi come dimmi una canzone bella. Su, veloce. Anche lei è come me. No, vabbè, io... no, ma non può essere. Non è i miei livelli di schifo. Ah, ok. Però si impegna. Non fa le sneffate lei. Non lo so, compagni e compagna. Dai, Cigo. Sono in difficoltà. Vabbè, Rap Caverna Post, so che l'ho già chiesto in passato, ma non si bega dreaming, non si... Va bene, perché sei tu. Si nega mai. Adesso la mettiamo, andiamo a prendere il nostro vinile d'oro. Ovvio, solito. Solito. E niente, Cigo, che dire, grazie. Questa la facciamo fare live magari invece. Ma infatti chiamiamoli, aspetta, raga. Arrivano. Adesso arrivano.

E sotto intanto chi è che è arrivato? Miles Davis. Salutiamo Miles Davis che è entrato anche lui a mettere esatto, un po' di musica. Che è sotto, quindi si sente poco per quello, perché è al piano di sotto. Però a proposito di sotto, prima o poi apriremo un crowdfunding da Radio ZM per riuscire a mettere la filodiffusione in tutto ZAM, perché è il sogno di tutti e tutte. Infatti prima eravamo giù ad ascoltare la radio e non si sentiva benissimo. Vogliamo dare la possibilità a tutto di poter regolare delle casse in giro per ZAM con Zona Rossa, con Radio ZAM. Questo è molto bello, non lo sapevo, ma sì, è molto sì, bello. Progettino by Gulli. Intanto squilla. Non ci vuole bene, forse non ci vuole bene. Attenzione, mi sa che... No, ma lui non lavora la sera, mai. No, no, ci odia proprio. Ci odia proprio. Proprio questione di odio. Noi ovviamente entriamo a gamba tesa durante l'orario di cena, però ci incazziamo di meno proprio perché è Stefano. Io non riesco a incazzarmi col Cesa, non posso. Cioè, saremmo entrati a gamba tesa molto dolcemente, molto dolcemente. E niente, io a sto punto chiamerei Sir Huffington, perché lo chiamiamo così poche volte. Ma perché Huffington non ha il telefono? No, no, ha fatto il nuovo telefono, ha fatto la nuova SIM. Ma Huffy ha un numero nuovo? Sì. Ha tenuto quello vecchio? C'ha il numero nuovo. E giustamente non lo vuole dare a nessuno, perché ha detto, ho vissuto così bene fino ad adesso, fino adesso. Ho WhatsApp vecchio, mollatemi. Esatto, infatti usa WhatsApp vecchio. Vabbè, lo salutiamo anche lui. Niente, riproviamo Sveva. Riproviamo Sveva, magari adesso ci risponde. Era giù, vero? Sveva? Era giù. Se solo era giù, probabilmente stava ascoltando Miles Davis. Io vorrei. Che è di sotto live. Sì, esatto. Infatti. Sì, salotto. Magari è per quello che non sente tanto, troppo la musica. Se poi non si sente, capisci cosa bisogna fare. Che io... Assolutamente sì. E io vorrei che Hank avesse un numero di telefono. Cazzo. Allora, sarebbe bellissimo. Ehi. Ciao, Svezia. Pronto? Ciao, Sveva. Pronto. Pronto? Non ci sente, vedi? Non si riesce, non si sente. Sveva, ci senti? Pronto? Ci senti adesso, Svezia? Ciao, Sveva, ci senti? Pronto? No, no, vero, accidenti, ma è una maledizione. Non so che cazzo... Poi capiremo, niente, quindi... Però tu... risponde. Non è impossibile forse che questo cavo arrivi fino qui in fondo, vediamo un po'. Dite che è impossibile. Oggi la radio è veramente una cosa assurda, dovreste vederla. Vabbè, potrebbe... Ci stiamo... Aspetta, fai così. Ci stiamo iniziando a... a testare sulle coreografie. Ma nel senso, staccalo così, guadagniamo centimetri. Adesso guadagniamo centimetri, intanto si è ristaccato dalla presa della corrente, però Zona Rossa è anche questo, è anche mettere a posto le cose in diretta, perché ci piace così. Sì. Non era previsto tutto ciò. Non era previsto tutto ciò, ma è entrata direttamente. Ecco, cioè, se com'è che è? Se Maometto va a montagna, la montagna va da Maometto. Sveva ai microfoni di Radio ZM per Zona Rossa. Eccola qui. Buonasera a tutte e tutti. Ciao, ti abbiamo chiamato. Ciao, ma Sveva, purtroppo ma ci sono state delle difficoltà. Non si sente un cavolo. Sì, infatti ho notato, continuavo a dire pronto. Sì, ma pronto? si sentiva anche in radio, ma noi però rispondevamo solo in radio. Okay. Esatto. Beh, sono qui. Presente. Ciao. Come state? Bene. Bene, bene, a posto. Sì. E oggi niente, parlavamo del esatto. 20. Ti avevamo chiamato perché di cosa fai sabato 20? Che programmi hai per la giornata? Ma io sabato 20 molto probabilmente sarò a fare una sorta di passeggiata. No, non è vero. Sarò sotto alla regione. E niente, sarò lì a manifestare insieme a tanta altra gente probabilmente. A che ora è? È alle 15, sotto al Palazzo della Regione. Ok, ma è vero che ci sarà anche un appuntamento qua in Piazza Beate Grasso? Sì, ci sarà una sorta di preconcentramento, diciamo così, in Piazza Beate Grasso alle 14. Oh, ma sei informatissimo. Sì, cavolo. Sì, lo sono. Ma infatti tutte le persone nella zona 5, se vogliono radunarsi un pochino, ovviamente sempre mantenendo le distanze di sicurezza, perché abbiamo anche tentato cioè nel senso si è anche tentato, da quel che ho saputo, di organizzarla così, quindi beh, certo. Sì, con le mascherine, da quel che ho saputo, quindi niente, e ci si può trovare tutti insieme in Piazza Beate Grasso per poi andare insieme lì dove inizierà tutto. Con la metropolitana. Sì, con la metropolitana, esatto. Molto bene, tra l'altro so che addirittura parte un puntello da tutt'altra parte della città, cioè a Sesto, in bicicletta. La Peppa? con puntello al carro ponte, tipo. Usteria? Eh sì, allora vedi, da diverse zone, bello. Tutte le cose. Ma Sveva, ci vuoi consigliare una chanson? Guarda, io ho un pezzo nel cuore. Un pezzo nel cuore. Un pezzo nel cuore che si chiama Ni Una Menos. Ah, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vinile. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo il vinile, sì, sì. Sì, sì, bellissima. Vedrete. Vi trasmetterà una potenza incredibile. Io mi emoziono sempre. Ti piace per quello, perché ti carica? Certo, sì, sì. Non poi in realtà parla di cose molto interessanti, stanza, questioni sulla violenza di genere, e dice anche proprio frasi riguardo al fatto che non c'è nessuna ragione, nessuna scusa per giustificare chi commette un abuso di qualsiasi tipo. È molto interessante, cioè sarebbe meglio tradurla, ecco, perché è dallo spagnolo, però è molto bello. E ti ricordi di chi è? È di Chocolate, sì, si scrive CH o Colate, ed è il remix, molto bello. Grazie. Eccola. Figurati. Abbiamo trovato il vinile. È stato più impegnativo, era molto in alto, infatti Sveva, affanculo. No, verrai che ti piacerà. Ne sono certo. Adesso vedrà. Ragazzi, niente. Ma siete morti voi, cioè... Niente, basta, non sta più... Ci sono delle difficoltà con il... ecco, vedi? Ci siamo. Sì, beh, voi potevate parlare, non è colpa mia, cioè... No, ci mancherebbe, c'erano dei disguidi tecnici che stavano... Sì, la puntina era rotta... Voi, quando avete il microfono in mano, dovete far finta, la regia non esiste, lasciate, non guardatelo neanche, parlate tra... guardatevi. Sì, no, ma loro mi odiano, loro mi odiano. La regia, noi stavamo guardando il concerto, siccome lei si stava preparando sul palco. Già. Certo. Vabbè, comunque è tutto pronto. Nella sua versione remix. Esattamente. Tutta così... Grazie Sveva, gentilissima. Figurati. A prestissimo. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao Sveva. Rimani, non è che ti stiamo cacciando su. Addio, ovviamente il 120 metri quadri di Radio Slam è enorme. E niente, so che giù vanno avanti a produrre, ma sono curioso di sapere che cosa stanno producendo. Quindi andiamo a chiamare un'altra persona che ci potrebbe raccontare un sacco di cose. E vediamo se ci risponde. Il problema non è la roba che usa, che non eres il culpabile, che io sono una illusa. Culpabile è tutto aquel che non accusa. Complicità se chiama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Grazie Sveva. Grazie Sveva, anche perché mi ricordo che nei primi giorni, nelle prime ore di diretta di Radio ZM, quando muoveva i primi passi, Sveva era qua ai microfoni, faceva il primo programma, uno dei primissimi programmi, e mettevano pezzoni del genere. Tutto abbiamo vero. Ancora i podcast delle Ribelle, si chiamava così, trasmissione condotta da Sveva, e c'era anche Tecla ogni tanto, passava Gioia, mi ricordo. E abbiamo anche i podcast freschissimi, i primissimi podcast, gli Amarcord di Radio quindi, ZM. Quindi non freschissimi. No, freschissimi perché noi siamo super sempre fresh, freschi. Noi siamo, esatto, super fresh. Surgelati. Esatto, surgelati, esatto. Ci manteniamo bene e rimarremo giovani e giovani per sempre. E abbiamo con noi due ospita eccezionali. Una è una pentita perché doveva essere qua la volta scorsa, prima di tutto, e un bel po' di tempo fa oggi. Perché le ho chiesto già ormai un'ora fa di passare qua, quindi alla pentita il microfono lo diamo dopo, invece lo diamo alla nostra ospita d'eccezione che oggi ha fatto una cosa bellissima che ci vuole raccontare. Presentati. Allora, ciao a tutte e tutti, io sono Kayara, oggi ho fatto la maturità. Grande! È una maturità un po' diversa dal solito, perché appunto diciamo che dopo 4 mesi nei quali le mie lezioni si... traducevano in svegliarmi a mattina, aprire il video su Zoom e poi tornare a dormire, oggi ho effettivamente dovuto dar prova delle mie conoscenze dopo i 4 mesi di quarantena. È stato molto divertente, no, divertente per un cazzo in realtà, molto interessante, sono contenta che sia finito, in realtà è andata meglio del previsto. Ottimo. Fatto un po' di frittatine e adesso sono solo contenta. Ma quindi online? No, in presenza. In presenza? In presenza. Mascherinati e super distanziati? No, in realtà sì, i professori erano disseminati in tutta l'aula, infatti la lista non sapevi mai dove cazzo guardare, e noi invece eravamo... In mezzo alla piazza. In mezzo, senza mascherine, col presidente davanti, il presidente di commissione, e... però almeno senza mascherina. Madonna, questa cosa anche senza avere mai fatto neanche gli iscritti. Esatto. Quindi perché... senza neanche avere... quell'argomento di partenza che sapevi già all'orale, perché alla fine dicevi vabbè, lo scritto è andato male, quindi mi chiederanno sicuramente lo scritto, invece qua no, tutto a caso, anche se devo dire che non fare gli iscritti probabilmente mi ha salvato la vita, quindi anche se la quarantena è stata una merda, in qualche modo la ringrazio anche. Quindi la didattica a distanza bocciata? Assolutamente sì. Bocciatissimo. Ma a settembre com'è che sarà? Com'è che ricomincia la scuola? Non lo so, da settembre si parla di scuola in presenza con dispositivi di protezione dati a tutti i docenti, gli alunni, però non hanno ancora detto in realtà niente di realmente concreto, applicabile, quindi si vedrà. Tra l'altro mi sembra di capire che il Ministero sia anche piuttosto soddisfatto di come è andata la didattica a distanza, veramente. Perfetto, grandi. Non capire una mazza. Ringraziamo anche il Ministero. Che caldo. Madonna, che entrano mia. Ospiti così a caso. E il loft rischia di non avere le misure di sicurezza adeguate per contenere con tanta gente. Sua santità. 130 metri quadri, 120, 130, non nessuno si capisce se mai. Cambiano ogni tanto, sono palcati. Esatto. Attenzione. Però io ho una domanda per Chiara. Fuori ce ne sono ancora di più pesanti. Perché tu hai raccontato giustamente che i corvi erano sparpagliati in giro per l'habitat scolastico. Venite. E poi hai parlato di un noi, nel senso che non eri da sola davanti ai corvi, quanti eravate oggi per esempio davanti alla commissione e andavate a scaglioni, facevano domande a tutti, come è funzionato? No, in realtà oggi eravamo uno alla volta, si entrava, cioè diciamo ne fanno 5 alunni a giornata, però ognuno di noi poteva portare un testimone appunto ad assistere all'esame. Che si già, è rivelato fondamentale, devo dire. Perché ottimo, era l'aiuto da casa. Guarda, intanto ti stanno facendo le foto perché stai diventando la star della rete studenti, perché probabilmente è la prima studentessa che entra a Radio ZM e Zona Rossa. Cigo, tu che hai lo storico delle puntate in testa, Cigo c'ha minuto per minuto. Il database multimediale vivente. Cigo, fra un po' si tatuerà sul culo chiappa destra zona rossa, lo sappiamo. Quindi passiamo il microfono più lungo che abbiamo alla pentita, che si nasconde dietro le poche ombre che sono rimaste nel loft, perché qua è tutto illuminato grazie al bellissimo solare di Zam. Ringraziamo quindi, chi ha contribuito al crowdfunding, esatto, per permetterci di autogestire le risorse naturali e produrci della corrente elettrica. Praticamente è sempre giorno e siamo super ecologici. Quindi la pentita ai microfoni, spiega perché sei una pentita, cosa avresti dovuto fare e cosa non hai fatto, e raccontati. Allora, ciao, sono la pentita. Perfetto. Ah, me lo rivendico. No. E non sono presente da un po', ma perché ero in vacanza, come è giusto che sia, dato che ho gli esami fino al 31 luglio, mi sembra anche corretto darmi una settimana di vacanza. Cosa stai studiando? Scienze politiche. Brava. Sto facendo finta di studiare scienze Brava. Politiche, mettiamola giù così. Brava. Che... Ottima scelta. Ottima scelta. E... Saresti venuto fuori peggio se avessi scelto filosofia. Invece, come vedi, i veri rivoluzionari hanno fatto scienze politiche. Beh, però adesso sono qua, quindi sono un po' meno pentita di prima. E sabato invece cosa farai? Sabato credo che andrò in corteo. Sì, c'è un corteo, un presidio. C'è un corteo? C'è un presidio? C'è un presidio corteo? C'è un presidio corteante? In Palazzo Marino? No. No. No, no, no, cazzo. C'è anche lì. No, c'è anche lì, ma quello è quello meno simpatico. Quindi no, sotto quindi la no, regione. Sotto la regione, vero? Raga. Vabbè, però a parte tempi. Questo. Tranquilla, non ti preoccupare. E niente. Ce n'è un altro da Rozzano che voglio. E ce n'è un altro da Rozzano che voglio. Unico partecipante, pappagallo. E pollo. Pappagallo pollo. Pollo. Poi insieme dicono... allo spirito di Anita. E poi grigliate agli orti, mi hanno detto. Ah. Mi hanno detto grigliate agli orti però. Dopo. Beh, sì, comunque sì, saremo sotto la regione a chiedere, a pretendere dimissioni della giunta. C'è la giunta. Da dietro dicono che non ci hanno dato la giunta. La giunta non ci ha dato la giunta e quindi basta giunta. Ma quindi volete suggerirci una canzone? Sì, sì, assolutamente. No, aspettate, scusatemi. No, dai, beh, scegliamo una canzone così... E decidiamo che quella sarà quella. Però non mettiamola subito, va bene? Va bene. Perché c'è Cic che è scappato, no? No, è qua dietro, è qua dietro. Se mi giro si strappa la cuffia. Non è vero, però non si sente il microfono. Quindi se vogliamo fare anche delle domande a Cic più approfondite di prima, secondo me è il momento giusto. Perché prima è stato sfuggente, anche abbastanza un po' così. Prima di passare la parola a Cigo vorrei dire che la pentita, cioè senza la pentita, la pagina Instagram di Zam farebbe cagare, perché lo Snef è incapace. Oh, questo cerco... social media manager. Tu cosa ascolta? Microfono una alla volta. Io ho due domande. Prima di tutto, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, se tu dici lo Snef, capiscono poco e niente. Quindi ora ci spiegherai, esatto, ora ci spiegherai esattamente per filo e per segno chi, cosa e dove si colloca questo personaggio di cui hai parlato. E poi in realtà mi sono dimenticato cosa volevo dire dopo, quindi spiegaci cos'è lo Snef e ciao Cigo. Allora, lo Snef è quando lo Snef è il soggetto che fa sneffate. Cos'è una sneffata? Una sneffata è far cadere una brocca su un computer, ad esempio. O, vabbè, non l'hai mai fatto, ma secondo me hai ottime possibilità. È quel genere lì. Oppure, non lo so, hai fatto un sacco di stronzate, Cigo. Che cazzo hai fatto? Tipo, far cadere il coltello. Dagli il microfono, se no non si sente. Allora, devo dire che la sneffata tipo, di solito, è quando viene fatto cadere il liquido di cui ci si abbevera durante una cena sul tavolo ogni volta che si cena. Cosa Perfetto. Che purtroppo accade spesso. A chi non ha il pollice così opponibile come... No, è troppo opponibile. Ce l'ha direttamente sull'altra parte. Esatto. È questo il problema. Vedi, tu hai un problema che arrivi sempre tardi, perché se arrivavi 2 ore prima impostavamo zona rossa su questa domanda. Sì, esatto. E diventava una cosa spassosissima, cosa che faremo mercoledì prossimo, ovviamente. Ricordiamo anche che mercoledì prossimo è un giorno speciale. Raga, è un giorno specialissimo. Ho tipo folgorato, cioè, Chiara, con quello sguardo. C'è la prima puntata del mio bellissimo programma nuovo. In questo momento è stato registrato su Nastro, anche, confermiamo l'appuntamento. Vi dico anche come si chiama. Dico anche come si chiama, non ve lo dico. Chiamiamo Guglielmo. Ve lo dico, si chiama... Quale ho scelto secondo te? Vabbè, aspetta, aspetta. Secondo me devo riprendere la lista. Devo riprendere la lista perché è giusto riprendere... Ne ho scelto uno, ringraziamo Ivan che ha... Ah, uno di quelli hai scelto? Ho scelto uno di quelli e devo dire che lista? Parte della scelta dipende anche dall'intuizione geniale rispetto alla sigla. devo dire quale la tua sigla? Sì. Aspetta, vuoi dirci, cioè, la sigla come indizio? No, perché poi diventerebbe uno spoiler. Mai. Quindi la sigla e il titolo vanno di pari passo, cioè sono Madonna, così. Geniale, già sono contento. Proprio adesso così. Voglio capire fino in fondo, perché io ho mandato un messaggio a Guglielmo tempo fa con tutto l'elenco tutte le ipotesi. Comunque Ivan è un grandissimo, possiamo dirlo. 10 cioè, maggio. Mi ha mandato. Ma perché scrivo così tanti messaggi fiducia a Guglielmo? Non lo so proprio. Cioè, infatti sto dicendo, ma per quale è motivo io e Guglielmo chattiamo così tanto? Tra l'altro, che per palle. Fortuna che sei lontano, perché non voglio sapere. Eccolo, allora. Quali sono i contenuti di quella chat? Allora, hai detto che si associa anche a una canzone, quindi dovrebbe ricordarmi una canzone. Raga, ho anche un testimonial, ve lo dico. Hai anche un testimonial? Ho anche un testimonial. Io lo sapevo che stiamo facendo le cose seriamente qua. Stiamo iniziando a volare tra questo e Midnight Max. Io non sto più nella pelle. No, tra l'altro, ecco, no, ci tenevo a dire che praticamente questa puntata sarà a partire da settimana prossima e per sempre in sovrapposizione a Midnight Max. Comunque, scusate se interrompo, ma arrivano dei messaggi per Lorenzo. No, che palle. Sì, testuali parole, li leggo pari pari. Sei un babbione, Lorenzo, fai schifo, ma poi quando mai mi scrivi infamone? Effettivamente, in sti giorni Guglielmo è preso da dei momenti di nostalgia molto pesanti in cui mi manda foto la mattina alle 7 e non vi dico che foto. Comunque io, niente, vado un po' a sentimento e ho pensato a Ricerca di base, no, vero? No. La rava e la fava? No. No. Porco Giuda. C'era uno sulle formiche, quello lì. No, quello devo dire che è stato uno dei miei preferiti. Vuoi farti una vita? Preparati con noi all'eredità. No. No, questo è un po' lungo. Allora, il testimonial però ci stava bene. Cioè, una canzone italiana o straniera? Stranger. Stranger, è bello, ok. Sulla cresta dell'onda del mare di Palta. Canzone. Quale cazzo di canzone sarebbe? Con la cresta dell'onda, sai quante te ne trovo? Okay, però. Niente, no. Niente. Potrei dirle tutte, però mi sa che devi dirlo te, perché sennò finisce che le dico tutte. Tranne quella, esatto. Ginnastica per sale d'attesa. Sto male. E aspetta, cos'è che hai? Brianino con la musica dell'ascensore come colonna sonora, come sponsor. Potrebbe essere. Ma no, la canzone e i testimonial sono due persone diverse. Sì, certo. Non è un testimonial, cioè. Però magari un giorno li associeremo, nel senso che faremo un video sponsor e metteremo la canzone mentre il testimonial fa cose. No, non è così disponibile il testimonial. Devi dirci chi è il testimonial. No, e testimonial non si può spoilerare. Si spoilera. Quindi solo poco. È la mia... Ma nel mentre mi dite che canzone. Sì, Cigo, infatti. Scusa. No, non Cigo, la non Cigo. Pentita. Allora, la pentita. Certo, no, infatti, ci mancherebbe. La pentita vorrebbe dedicare una canzone, che tanto non ascolteranno perché sono giù a cazzeggiare, alle due maturande di oggi. Perché è una canzone molto importante per noi tre. Che è Complicated di Avril Lavigne. Sì, grazie. Raga, ero alle medie io. Mamma, che puntata di proprio... Zoro. Ha fatto salire tutto di livello. Prego, la pentita è qua quando volete. Guglielmo, hai sentito cosa stanno per mettere? Non so se gli piace, però. No, invece adesso parli, hai capito? Passo la parola allo Snef, che dirà qualche cazzata live per tutti e tutte. Dici, allora, Cigo, esprimiti. Tra l'altro siamo tra i pochissimi che abbiamo il vinile di Avril Lavigne. Esatto. Per la rara il vinile di Avril Lavigne. Tra l'altro, Avril Lavigne è quella vera o no adesso? In che senso? Perché sapete che c'è il complotto? No. Vabbè, perché è uguale. Che sia stata sostituita Avril Lavigne. Siccome praticamente io tu te la ricordi che eri alle superiori, all'università, già, perché c'hai 46 anni fa. Però in realtà io rido perché leggo i messaggi di Google su Telegram. Tra l'altro, scriveteci su Telegram che funziona davvero. Funziona. E non sto ascoltando voi, quindi non so di cosa state parlando, per esempio. Però vabbè, scusate. Stavamo parlando del complotto che vede Avril Lavigne come non la stessa Avril Lavigne di quando eravamo alle medie, ma una sua clone praticamente senza età, come Denver, cucciolotto verde senza età. Che in realtà, una cosa credibile, banalmente era un po' il sogno di tutti noi che rimanesse così per sempre, quindi a quanto pare ci hanno accontentato, il sistema funziona e ringraziamo il capitale, ringraziamo i cinesi e i cloni, perché sicuramente sarà made in Cina, ovviamente, perché hanno già fatto 3 bambini e altrettante cose clonate. E quindi niente, adesso Avril Lavigne, sperando sia quella vera, con Complicated. E grazie, a me, per me, guarda, è solo un'emozione, veramente. E dopo leggiamo il messaggio di Gulli. Yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one on one. But you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me why the hell they gonna make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like Radio ZM. Radio ZM sta impazzendo letteralmente. Dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Don't everyone else, you're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool. Dai, siamo in onda, pentito. È appena passata Avril Lavigne, quindi tu arrivi dopo Complicated di Avril Lavigne, che è stata donata da Chiara a da Cocchi a Chiara e Marta, giusto? Scusate, sono stanco. Quindi ho una grossa responsabilità. Devo onorare Avril Lavigne. Esatto. Bene. Ti ha aperto Avril Lavigne, quindi tu devi fare un concerto della Madonna adesso. Dove sarai? Tanto, cosa fai canti, sabato? Cosa sempre, fai sabato? Dappertutto. Sulle notte di Avril Lavigne, sabato mi recherò in, sotto la regione Lombardia, in occasione della, del presidio che ci sarà per l'appunto sotto la regione Lombardia, organizzato per denunciare tutte le malefatte criminali che sono state compiute da questa dalla regione e anche dal comune di Milano nella gestione della pandemia da Covid-19. Saremo lì per tutte quelle categorie o che sono state dimenticate fin dall'inizio della pandemia o che prima sono stati definiti eroi e poi sono stati come al solito dimenticati. Saremo lì quindi per gli infermieri, le infermiere, i soccorritori, i medici e tutti coloro che lavorano nel mondo della sanità, un mondo della sanità che da 30 anni ormai è vessato con tutte le privatizzazioni che caratterizzano il sistema sanitario della regione Lombardia, che si vanta di essere la punta di diamante di un sistema sanitario nazionale che invece è carente, e invece abbiamo più di metà del sistema sanitario della regione Lombardia che è in mani privati, e questo significa carenza di posti letto e si è tradotto poi nella realtà con più di 16.000 morti nella regione più vessata d'Italia, che per l'appunto dovrebbe avere la sanità migliore addirittura a livello europeo. Parleremo poi anche di tutti quegli invisibili che durante la pandemia sono diventati ancora più invisibili, i lavoratori dello spettacolo, che ancora, coloro che ancora devono ricevere la varia cassa integrazione in deroga, i rider e tutte quelle classi che ancora prima della pandemia erano sfruttati e adesso saranno ancora più sfruttati, e in generale per tutto il mondo del lavoro che dopo questo periodo eccezionale vedrà un acuirsi delle disparità sociali, della precarietà sul mondo del lavoro, dei contratti in nero e via dicendo. Quindi l'appuntamento del 20 alle 3 sotto la regione Lombardia è un appuntamento assolutamente importante da attraversare per iniziare un percorso che ci porti a chiedere fortemente le dimissioni di questa giunta regionale, soprattutto, che tra l'altro è indagata in innumerevoli processi per innumerevoli reati anche molto gravi, per non far dimenticare a nessuno le responsabilità che hanno portato alla morte di 16.000 persone innocenti, dagli anziani nell'RSA fino ai malati, fino anche persino ai bambini. Quindi niente, invitiamo tutti da Zona Rossa, invitiamo tutti a esserci il 20 giugno alle 3 sotto la regione, oppure alle 14 da Piazzale Abbiate Grasso, per continuare quel lavoro che abbiamo fatto con le brigate di solidarietà e per dire che senza le brigate lo Stato non si sarebbe fatto vedere, probabilmente sarebbe andata ancora peggio di come già è andata in modo disastroso. Grazie Norberto, meno male che ti abbiamo dato un microfono in mano e non qualcos'altro, perché sennò chissà come finiva. Motivato comunque le ha lanciate proprio, grazie mille, era quello che ci voleva per penso la chiusura di... Vorrei citare la teoria di Gulli. Io non so perché si dia ancora spazio a certa gente rispetto alla questione Avril Lavigne, cloni e sostituzioni, che ne abbiamo parlato quando c'era la canzone, quindi non avete sentito, ma c'è stata una discussione che ci stavamo quasi per picchiare. Comunque la teoria di Gulli è che Avril Lavigne sia stata sostituita da Norberto ma in realtà poi si è scoperto poi in seguito essere un clone di Norberto, perché Norberto è quello vero, ce l'abbiamo noi. La domanda che ci pone Gulli alla fine di tutto questo è: ma pensa come si sente lui, lei, Avril, come clone di Norberto? È una bella domanda. È un programma che fa ridere, ma anche che fa pensare. Molto, fa molto pensare. Perché tutti sottovalutano questa cosa, ma tu pensa come si sente lui come clone di Norberto, ma sosia di Avril Lavigne. Cioè, la sua identità qual è? La sua identità penso che sia veramente molto complicata, e soprattutto nel momento in cui pensi di essere... Cioè, perché la consapevolezza dov'è? Lei sa di essere un clone di Norberto che però sostituisce Avril Lavigne. Tutto questo è incredibile. Ma lei sta giocando a burraco con Elvis e Tupac. Esatto. No, ma ecco, vedi. Sono tutti, vedi, sulla... No. Da Michael Jackson in avanti. Perché si è anche parlato a microfoni spenti di questa cosa. e delle varie morti delle star. Non so se avete presente la puntata dei Simpson in cui esatto. vengono drogati e si ritrovano in una isola. Ecco, lì, secondo il buon Pica, che è uno che ha studiato, non è che è un coglione che dici, cioè, questo dice le prime cose che... Invece lui ha scoperto su dei video su YouTube che in quanto tali sono sicuramente fra le fonti più critiche antisistema, che esiste una isola dove i koala sparano spruzze di droga, lisergico alienante, che ospita tutti i grandi VIP dell'ultimo quarto di secolo. Sì, più o meno sì, ma non per, no, per chissà più. Per quale strano, perché semplicemente queste persone si erano stufate di appartenere a quello Star System, e il modo più semplice per uscirne è pagare una quantità di soldi incredibile, fingere la propria morte e andare su un'isola deserta a finire la propria vita. Ma su quest'isola deserta c'è ancora Marilyn Monroe o no, si è spostata? No, si è spostata. È morta di vecchiaia Marilyn Monroe, amici. No, Marilyn Monroe è ancora viva. Esatto. No, è un clone di Norberto che... È morto il clone, che ha sostituito, ma quella vera è rimasta viva. Ora io chiederei, in realtà una cosa molto interessante, una canzone a testa noi tre. Io ce l'ho. Le mettiamo in playlist e chiudiamo Zona Rossa con tre tracce. Io ce l'ho, zarrissimo, una ragazzi. Più bella dell'altra. Io ce l'ho, ma di un altro tipo di zarro. Io ce l'ho, ma non troppo zarra, abbastanza. Dai, ho già la cartella aperta. Anch'io invece, io sono sicuro che dovrei cercare un vinile. Tu devi cercare un vinile? Cerchiamo il vinile. Io invece ho il live. Tutto. Ho il live. Tu ce l'hai live. Sì, io ce l'ho live. Tu ce l'hai live qui. Adesso lo chiamo. Chiamali. Lo chiamo, chiama, lo chiamo. Chiama, chiama. Quindi andiamo in ordine. Gigi, vai. Devo individuarla. Allora, intanto che Gigi la individua, andiamo a cercare il vinile per Chiara. Proponi. Esatto, io voglio cercare, perché con della zarraggine ma con del senso, un pezzo di Beyoncé. Attenzione. Che si chiama Formation. Perfetto. Che ho conosciuto in occasione di una bellissima presentazione, che era quella di Pippo Junet. Ottimo. Che ha fatto un libro fighissimo durante, diciamo, il periodo di Ferguson, il periodo in cui gli scontri di Ferguson erano particolarmente alla... Tra l'altro anche allora un altro I Can Breathe. Madonna. Proprio la stessa frase. E niente, c'era questo libro molto bello con una presentazione altrettanto bella, anche un po' interattiva, in cui ci faceva vedere i video e in particolare ci faceva vedere alcune delle canzoni che in una qualche maniera erano, diciamo, o ammiccanti. Certo, o... sì. Dichiaratamente politiche, diciamo, okay. nel senso più ampio e più puro del termine politico. E una di queste era Formation, in cui Beyoncé fa, come dire, onora nel corso di tutto il video tutta l'iconografia black. Pazzesco. Quindi è molto figo, devo dire la verità. Poi riusciremo un giorno a avere anche lo streaming video, così vi facciamo vedere le chicchettine di cui parla Chiara, anche nel suo bellissimo programma. Comunque bellissimo, mi ricordo sicuramente c'era quella, c'era This is America ovviamente, certo. C'era All Right di Kendrick Lamar, altro... Anche quello pezzone. Altro pezzone, altro tanto ci sono i video di Kendrick Lamar negli scontri. Sì, tutti, è vero. Raga, e io cosa è notevole. Intanto ci ho ripensato. E cerco anch'io un vinile, quindi romperemo un po' la minchia Gigi che deve andare ogni volta nello stanzone. Adesso gli urliamo anche. Vabbè, tranqui raga, tanto praticamente devi cercarlo. Tanto abbiamo il mio, devi le cercarlo scale mobili sotto. Che ci non, mi ricordo, non mi ricordo bene come si scrive, proviamo. Però secondo me Gigi un po', se va indietro con la memoria, arriva la PlayStation 2, che mi sa che aveva. E no. Si ricorda, no? Però avrai scroccato qualche partita sì, a Need for Speed Underground 2. Sì, c'era una sì, canzone sì. degli Elementi Edge o Elementi qualcosa, e provo a scrivere Elementi Need for Speed Underground 2. Vi spiego come Chiara ha fatto giustamente, anche io devo giustificarmi, perché io nasco nella mia ignobile vita, nasco metallaro e no, capelli lunghi fino a metà schiena, d'archettone fino al midollo, quindi black block fino dal liceo praticamente. Cioè, Elementi senza Edge, parole. Age, Elementi qualcosa, un gruppo metal. Appena c'è Need for Speed Underground 2. Adesso vengo io a cercarla intanto che parlo. praticamente abbiamo sdoganato qua al collettivo Spallanzani i videogiochi, nel senso che un po' ciascuno stiamo iniziando a pigliarci gusto a riprendere a giocare un po' ai nuovi titoli, un po' ai vecchi. Allora mi è venuta questa botta di nostalgia. Questo è un pezzone metal che mettevano mentre andavi a 340 all'ora in mezzo a New York. Insomma, molto interessante, un po' macista come cosa, però vabbè, siamo a zona rossa, quindi che ci possiamo fare? Bellissimo, direi anche donne, motori, gioie e dolori, così per buttarla a cacciara proprio. Chiara, intrattieni e Gigi, intrattenete, io cerco il database. Vabbè, database, ma nel frattempo possiamo cominciare a mettere quelle che ci sono, no? Già tu l'hai trovata, tu hai deciso. Io l'ho già messa, guardala. Attenzione, pezzaccio. Pezzone. Vabbè, comunque questo è un pezzaccio. Tra l'altro possiamo utilizzare questa cosa per rimandare anche a un altro programma bellissimo di questa radio che, attenzione, giusto domenica ha parlato proprio dell'artista di cui sta per arrivare una canzone. Ah, vai vai. Stiamo parlando di Up Underground Pushers, tenuto dal formidabile Nino, che salutiamo, e da Gigi Proiettili. Ciao Nino. Cioè, è stato incredibile giocare a carte con Nino l'altro giorno, perché uscivano delle freddure ogni 10 minuti così. Sì. Ma purtroppo c'ha quel brutto, cioè, difetto. Durante il linguaggio, senza, cioè, era proprio durante la frase uscivano delle freddure. Perché nel caso di Nino, cioè, lui è abbastanza militante attivo di questa cosa, capito? Non è un attivista saltuario. E quindi purtroppo nel suo vocabolario personale di militante c'è diciamo, l'elenco delle battute più brutte scritte dall'uomo, dalla tavoletta di cera cuneiforme, vabbè, insomma, con la scrittura cuneiforme in avanti più o meno. Beh, mandiamo la traccia. Io... I bring it where your parents live. Show you what my status is. Steamboil your cabbages. I can't take y'all niggas faggotness. You about to die. Show them where his casket is. You want the beans, I have your hood under siege. Clocks get squeezed and bullets hit your knees. So who are you? Bust a bus down, something for show. Keep you wild until somebody's left the leak on the floor. And how you doing? He's been awaiting the guard to make an undeniable entry, controlling everything in the yard. Rugged like General Custard, it seems. How we crush grape, you niggas, and make a mustard out of your team. You know we hotter than the 4th of July. So sit back and watch the fireworks show light up my name in the sky. So who are we? Zip Mo. Got you gasping for air. Hot shit. shit, motherfuckers. Throw your hands in the air. So how we do it? How we reppin', yo, I solemnly swear to put it down until it's over and my time is up here. So who are we? Flip on. Got you gasping for air. Hot shit, motherfuckers, throw your hands in the air. Watch how we do it. How we reppin', yo, I solemnly swear to put it down until it's over and my time is up here. So who are you? What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. I'm popular the man. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. I earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag, swag. Ooh, yeah, baby. Oh yeah, yes, I like that. I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch. I like cornbreads and collard greens, bitch. Oh yes, you best to believe it. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. I earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag, swag. I see it, I want it, I stunt yellow on it. I dream it, I work hard, I grind till I own it. I twirl on the middle, albino alligators. El Camino with a Cielo, sipping Cuervo and Ojiza. Sometimes I go out, I go out, I go hard, I go hard. Yeah, what's mine? Hey, what's mine? I'm a star, I'm a star. Cause I slay, I slay, I slay, I slay, all day. I slay, I slay, I slay. We gon' slay, gon' slay, we slay. I slay, I slay, okay. I slay, okay, okay, okay. Okay, ladies, now let's get information. Cause I slay. Okay, ladies, now let's get information. Cause I slay. Prove to me you got some coordination. Slay trick or you get eliminated. When he fuck me good, I take his ass to real life. When he fuck me good, I take his ass to real life. If he hit it right, I might take him on a flight on my chopper. Drop him off at the mall, let him buy some J's, let him shop up. I might get your song played on the radio station. I might get your song played on the radio station. You just might be a black Bill Gates in the making. I just might be a black Bill Gates in the making. I see it, I want it, I want it. Take what's mine, take what's mine. I'm a star, I'm a star. Cause I slay, I slay, I slay, I slay, I slay, I slay, I slay, I slay. We gon' slay, gon' slay, we slay. I slay, I slay, okay. I slay, okay, okay, okay. Okay, ladies, now let's get information. We'll be right back. reason you're why you try to take everything away from me. Well, I'm begging you. I'm new and nothing left to show. Since the day you left me, I have been so alone. Ed eccoci qua. Che freschezza, zona rossa, che freschezza. Mamma mia, ma voi lo sapevate che Pica era metà raro con le unghie pitturate di nero? A Borgo Ticino? Madonna. Tutto questo è incredibile, penso che sia un finale degno, cioè, di una puntata degna come mi non siamo sporca noi. Sporca dentro. Esatto, andiamo a lavarci adesso e a mangiare soprattutto. Sì. E niente, salutiamo, chiudiamo, invitiamo. Sì, gli ultimi messaggi di Guglielmo come sono? Simpatici? Non ha più risposto. No. Niente, basta. Ci ha abbandonato. Ci è rimasto ascolta, male per la questione dei giochi scaricati. Però... ma sì, ma poi va bene così, è giusto che ci rimanga male perché è colpevole. Quindi salutiamo tutti e tutte, ringraziamo chi ha risposto, ringraziamo soprattutto chi non ha risposto perché ci fa andare avanti sempre di più. Grazie. Grazie mille. E ci vediamo sabato. Peggioreremo. C'è dell'emotività, credo che sia colpa dei tuoi emo metal. Sì, esatto, sempre, certo, assolutamente. Quindi andiamo avanti con l'auto DJ e niente, ci vediamo sabato. Dovrebbe tornare non giovedì perché Le Ribelli salta. Ci vediamo sabato, cercheremo in tutti i modi di farvi una bella diretta, insomma ci proviamo, ce la faremo, forse no, forse sì, vediamo. Capperi, io questa cosa non la sapevo. Ci vorrebbe un criceto che sta qua, poveri criceti perché è un criceto, però qualcosa che sta sei qua. Sei veramente specista. E preme talk. Sei specista. Dobbiamo chiedere ai Gerbellini di Fergi. Esatto, Gerbellini, come cazzo si chiamano? Quelli, glielo chiederemo e magari lo faranno. Vabbè, intanto... io sono costernata dall'avere qua di fianco uno specista, veramente non lo sapevo. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, provvederemo immantinente alla sua cacciata. Fine. Buona serata, ci vediamo sabato. Ciao. Thinking about you. I've listened to all the tunes I love, but make me feel quite blue. I've been thinking too much about you. See the sunset with no sleep at all. Constantly thinking about you, and I can't get through this at all. Thank you.